siccome esagero, poi intanto ci loro non sanno, ma già sono in diretta. Ecco. Subito. Allora, qui abbiamo dunque, sperando che non fischi il tutto, come sentite stiamo sistemando un po' i microfoni. Abbiamo scoperto che Lili beve l'acqua, il vino annacquato. Ecco, no, subito. Non teneva... è vero, non bevo il vino annacquato, perché questa... bevo troppo vino, quindi ogni tanto ci devo mettere l'acqua. Abbiamo colto in fallo. Qui siamo dei puristi qui. Io non sono un bevitore, ma il vino deve essere vino. E non mi, non mi dire, io sono che d'accordo, sono d'accordissimo con te. No, no, per carità, cioè l'unica cosa che faccio invece, è questa cosa un po' d'anziana. Che ci metto ogni tanto l'acqua, ma solo per idratarmi un po' di più, ma mica sempre, cioè il vino me lo bevo, cioè chiedilo un po', i miei amici lo sanno che sono una terrificante alcolizzata. Idrati. Ogni tanto grazie all'acqua nel vino. Bene, bene. E l'acqua quindi, da sola dicono che fa ruggine, quindi questa persona così, come dire, loquace, la presentiamo, è Liliana. Evviva. Che ti chiami Liliana? Che però non mi chiamo Liliana, no, in realtà no, mi chiamo solo Lili. In realtà il mio nome anagrafico è un altro, ma non lo dirò mai. Ma io lo so tanto. E non lo dire però. Iole. Chiettelo per te. Iole, Iole. Esatto, Yoda. Hai capito, c'è pure l'inganno su un nome. Hai visto? Dopo, per scontato. Sì, perché Facebook mi continuava a chiedere i documenti, voleva sapere il mio nome con i documenti. Quindi ho detto, vabbè, mi chiamo dai Liliana, Lili Refrain, e lì ha smesso di chiedermi questa cosa. Quindi c'è gente che crede che io mi chiami Liliana, ma... Non è così. No. Quindi dopo questi tevegolette convenevoli, Lili è una vecchia, beh, vecchia, nel senso, vecchia conoscenza di radio, perché pure dai. È entrata qui, è che aveva tre anni. Sì, aveva tre anni. Quattro anni. 2014, quindi ormai. Sì. Che sì. Ti abbiamo sbattuto al muro perché eri troppo come? Zitta, basta. No, vabbè, comunque. Cose. Non la facciamo suonare, non la facciamo parlare. No, esatto. Comunque lei è già suonato qui in radio. Noi non ci vediamo da allora qui dentro. Non so se sei venuta poi, dopo, prima, non so. Dimmi. Qui in radio no, però ci siamo rivisti, insomma. Ci siamo rivisti altrove in altri concerti, vabbè. E quindi lei suonerà a Forte Prenestino venerdì prossimo. Vabbè che è un personaggio strafamoso. Beh, non mi sento osservato da qui da Bonne. Che stai facendo? Non so, ma non mi smontare la protesi. Cadono cose. Mi staccare la gamba qui. E quindi dicevo, mi sono scordato. Comunque, sì, che lei suonerà il prossimo. Ah, no, giusto, lei è un personaggio famosissimo, però chiaramente un minimo di riassunto delle puntate precedenti lo devi fare, insomma. Quindi i tuoi inizi. Lili Refrain, da dove vieni? Dal addirittura da pre Lili Refrain, cioè devo partire dagli albori, quando senza, sono nata. Ci abbiamo un'oretta di tempo. Anzi, tanto, che non ti ha chiesto dei genitori e dei nonni. Possiamo sorvolare su queste cose. Dai, parliamo delle cose più interessanti. Però tu, beh, insomma, sono 10 anni ormai che calchi, no? I palchi. Calchi i palchi da 10 anni. Quindi... Guarda, se, per quello che mi ricordo io. Lei a un certo punto della vita X ha detto: io mi sono stufata di fare la precaria di tutto e di tutti, faccio la cosa che mi piace, e questa è l'ora X. E ti ricordi benissimo. È vero? Sì, è vero. Nel 2007 è scattata questa cosa di dire: porca miseria, ho una vita sola, ma che sto facendo qui? Lavoro come cameriera da 5 anni, insomma, un macello. Tra... Per carità, mi piace, mi è sempre piaciuto lavorare. Tu c'hai 20 anni circa, sei giovanissimo. Che 20 anni? No, no, ti davo 20 anni. Ma come datata, dai, no? L'acqua nel vino già ti doveva far capire tante cose. Dalla nonna, detto. Hai capito, nonna Lili qua. Io sono una bella nonna Lili. Nonna Lili suona stra bene, ancora di più zia Lili. Vabbè, già abbiamo tu nonna che è un altro personaggio. Ah, grande calca. Silvia, yeah. Insomma, dai, dici un po'. E quindi niente, diccio, praticamente sì, insomma, a un certo punto mi sono stufata e ho detto, boh, ho una vita sola, voglio provare a fare quello che mi piace, visto che, insomma, se non lo faccio adesso, quando? Quindi ci ho provato e ho detto, vediamo che succede, al limite faccio sempre in tempo a tornare a fare la cameriera o qualsiasi altra cosa. E invece è andata bene, nel senso che riesco a campare. No, sì, mi fa piacere. È una cosa bella. No, no, aspetta, in Italia la maggior parte dei musicisti non ci cantano. Rimango sorpreso, viaggio come una trottola, sorpreso continuamente. Poi sono da sola, quindi magari è anche più semplice da gestire rispetto magari a una band. Certo. E niente, sì, sto sempre in viaggio con i suoi pro e contro, della serie, poi torni, sei tutto scatafasciato, certo, fisicamente. Dici. Peraltro, però, scusa, mi chiedono cosa stiamo facendo. Io ripeto per Stefania che sta a Berlino, leggo. È l'intervista a Liliana Lili Refreni, che lei conoscerà sicuramente perché è persona colta musicalmente. Ciao Stefania, la salutiamo, insomma. Sì, e quindi, però tu avevi dei passati, un passato con delle band, no? Mi sembra. Hai provato? Ho suonato, un po', ecco, sì, ma dai tempi del liceo. Sapeva suonare. Sapeva suonare. Mi piaceva, sì. Non ho mai preso lezioni, però mi sono sempre messa lì, incuriosita dalla chitarra fin da quando ero piccolissima. Mi veniva spontaneo fare proprio le mosse dei chitarristi. Certo. Mio padre si ascoltava tantissima musica a casa, quindi quello è stato sicuramente il background più importante. E niente, ho cominciato a suonare, poi al liceo, insomma, ho incontrato degli amici che suonavano anche loro, abbiamo detto dai facciamo un gruppo, sì, è durato 5 anni, quindi proprio un sacco, per anche per il, insomma, per i tempi era duratura come cosa. E nulla, poi si sono un po' separate le nostre strade, poi ho suonato anche con altre band sempre come chitarrista, ogni tanto cantavo molto timidamente, però e niente, poi a un certo punto anch'io ho cominciato a fare tutt'altro, suonavo, ma suonavo per conto mio in cameretta, facevo delle cose con questo registratore a nastro chiamato Tascam, che mi permetteva praticamente di registrare, sì, esatto, di sovraincidere tanti strati di chitarre, però mandando sempre indietro il nastro, quindi insomma diciamo che era un po' artificioso, molto artificioso, primitivo, sì, però è lì che è nata Lili Refrain, certo, paradossalmente il concetto è nato lì, sì, del loop, l'idea, no? dei ritornelli, sì, sì, senza ritornelli è nata proprio sul nastro. E poi da lì ho detto ma vediamo cosa può succedere con cose un po' più digitali, quindi ho cominciato a usare sequencer, quindi al computer, e poi ho scoperto questa scatolina chiamata Loop Station, che ho detto porca miseria, questa è proprio ciò che fa il caso mio, e quindi da lì ho provato ad usare questo registratore. Ecco, per digitale. I più ignoranti spiega un po' il cos'è loop la Loop Station. Esatto. La Loop Station è un effetto, è un pedalino. Non calzino, ovviamente. No, non un calzino, un piccolo pedale. Più, non ti sentiamo più, no. Rimetti come era prima. Adesso ecco, poi vengo io di là di sistemare le cose. Vai. E nulla, la Loop Station praticamente è un effetto che si può applicare a voci, chitarre, tastiere, a qualsivoglia strumento o oggetto. E, progetto? A progetto. Cioè, se io ti tiravo quella volta e ti ho tirato dal muro. Quando mai tirato dal muro? Porca miseria. Quando eri bambino. Sei ricollegato a una Loop Station, veniva fuori un tunf. Un tunf. No, non è nient'altro che un registratore. È un registratore che praticamente registra in tempo reale quello che si va a fare. Quindi con la voce, con la chitarra, con il basso, con la tastiera, qualsiasi cosa. Quando si preme, registra quello che si fa, e se lo si preme lo manda in loop. Quindi praticamente crea questo cerchio sonoro, certo, che torna sempre finché non si preme stop, e sopra il quale si possono registrare infinite frasi per tutto il tempo, che è proprio la summa del progetto che ho. Quindi sono tutti. Notare la summa, non so se avrete notato voi, ascolta summa, perché sono anziana, quindi. No, ma questo è proprio il concetto della cultura, cultura summa, sicuramente summa. Classica, cioè 4 lauree te, paturni, c'ho tante paturni, oltre le lauree c'ho pure i paturni. No, e quindi vabbè, sul fatto del che poi la base è proprio quella, cioè tu sei una donna orchestra, come si suol dire, no? Una quindi, donna in loop. Una donna in loop che tu sconoscerai, per esempio Siben, famoso. Come no? Ecco, ci ho suonato insieme a Siben, tra l'altro, sì, Matt Owen, esatto. Grandioso musicista, grandioso violinista. Appunto. Noi abbiamo suonato assieme proprio a Roma durante questo festival che fecero nel 2009, non vorrei dire fesserie con l'anno, comunque tanto tempo fa, e si chiama Post Romantic Empire. Stavo anch'io. Era il 2007, 2008. 2008 addirittura. Che c'è David Tibbet, ti ho visto la prima volta suonare. Con i Current 93 e tanti altri simpatici. Tutti a mangiare al ristorante dopo, mi ricordo, c'è Steve Severin, Nada. C'era anche Nada. C'era Nada, attenzione, Nada con David Tibbet. C'era anche Federico Fiumani, ahimè, fantastici. c'era Baby D, Baby che D, ho adorato, esatto, c'era Otton Matragas, c'era Ernesto Tomasini, Fabrizio Modonese Palumbo, sì, c'erano, sì, un sacco di bellissimi personaggi. Bel festival, sì, credo due giorni durava 24 ore al giorno. Esatto, perché era proprio il commiato, esatto, della Post Romantic Empire, organizzata da Giulio Di Mauro. Sì, Giulio Di Mauro, vogliamo che salutiamo bene, innanzitutto anche lui. Tessuto anche Luciano FM Genovese. Grande Lucio, conosca, ciao. Insomma, ecco. Sì. E poi voglio sapere il tuo nome alla fine dell'intervista. Lili. Lo sapete tutti il mio nome, sì. Lili. No, il vero nome, sta dicendo. Lili è il vero nome. Cioè, vabbè, se il nome è quello che ti scegli, Lili è sicuramente il mio vero nome. Vabbè, ok. Per cui sei arrivata alla prima incisione, che era un... Prima incisione era questo, sì, questo primo album totalmente autoprodotto, registrato in studio, totalmente autoprodotto, che è un album di 7 tracce, uscito nel 2007. E quella è stata un po' una sorta di promino per vedere un po' che cosa succedeva, che tipo di feedback potevano esserci. Certo. E ci sono stati dei bei feedback, per fortuna. Quindi qualche anno dopo, nel 2009, mi sono messa a registrare il mio secondo disco, che si intitola 9, per l'appunto, sì. Certo. Uh-huh. E che è uscito poi nel 2010 con Trips und Träume, sì, di Luciano Lamanna, Luciano e Drugo. Sì, sì. Mm-hmm. E niente, poi molto molto dopo, nel 2012-13, ho registrato Kauax. Esatto. Quindi, e adesso è in lavorazione il quarto album, di cui però non anticiperò niente, se non che al Forte Prenestino ci saranno dei brani in anteprima sicuramente. Però non si sa ancora quando uscirà, insomma la lavorazione sarà molto lunga, perché voglio proprio fare una cosa un po' diversa questa volta. Ma rispetto a Kauax, no? Vero? Kauax. No, capito, sto bacchettato perché l'ho chiamato Kauax. La pronuncia è importante qua. Che effettivamente lei mi ha ripreso che è Kauax, anche il secondo brano, quindi. Invece l'album è Kauax, terzo, esatto, lavoro. E ci sono delle differenze rispetto, a parte di Kauax, l'abbiamo qui, ci sentiremo qualcosa a breve per fare una pausa, insomma. Mm-hmm. Ma ci sono delle differenze rispetto a Kauax, sì, musicale? Sì. Diciamo che il progetto sarà adesso sempre... è musica lirica? Fai oh! Così. No, anzi, sto un po' distruggendo. No, sto un po' decostruendo anche la situazione vocale, è molto più radicata alla terra più che all'etere, diciamo. Quindi adesso l'elemento, diciamo, nuovo all'interno del disco che suonerò sempre io sono le percussioni. Quindi oltre alla chitarra, le voci e vari oggettini, ci sarà anche questo elemento percussivo che in Kauax c'è soltanto in una traccia suonata da Valerio Diamanti, che è un eccellente batterista, mm-hmm, che mi ha accompagnato in Baptism of Fire, che, sì, è l'unica traccia percussiva di Kauax, però lì è proprio una batteria completa. Mentre in questo nuovo disco ci sarà proprio le percussioni, non come batteria ma proprio come elemento... Intendi congas, timbales, ma più timpano e qualche timpano, cassa e qualche scampanellio strano. Ci saranno, sì, diciamo, molti percosso da te, certo, sì, bene, sì, tutto suonato, okay. Quindi riesce a essere conciliato col comunque il principio comunque di rimanere in special modo dal vivo da sola. Sì. Solipsismo. Quindi sì. Solipsismo militante e sì. Paturnia. Senti, ma a proposito di solipsismo, anche se non c'entra nulla la domanda, però ci sta bene come frase così, no? Il tuo esiste del background etnico in tutte quelle che fai? Io colgo ogni tanto dei riferimenti. Mi è capitato di escapismo ascoltare... mentale e geografico. Testa questa cosa. Sì, cioè, sì, ho ascoltato un sacco di volte, sto in fissa persa con i canti bulgari, per esempio, che ovviamente emulare sarebbe totalmente impossibile, però sicuramente mi non lo so perché, ma tutte le volte che canto mi vengono spontanee delle dei riff, delle virate vocali molto simili a magari il repertorio medio orientale, però anche se non ho poi questa cultura musicale etnica, magari più del Medio Oriente, forse un po' più legata, ecco, all'est, ai Balcani, sì. Non so perché mi viene spontaneo, magari è generico, che ne sai, magari c'è magari in un'altra vita qualche avo, no, è vero, è bella sta cosa, perché è molto evocativa, non lo so, mi viene spontaneo andare su quei lidi lì quando canto, cioè se devo lasciare la voce libera di andare, effettivamente poi le note che prende sono un po' quelle. Peraltro apro una parentesi breve, no? Io prima ho mandato, cioè, un personaggio che ci sente qui, mi sente, Raffaele Pezzella, che è un musicista di Napoli, sono come sonologist, ma lui c'ha anche un'etichetta che è Unexpressed Sounds. Te lo dico perché lui c'ha il merito di fare delle compilation di scene, tipo la scena sperimentale iraniana. Ah, wow, bello. Ha fatto quella, e la prossima settimana, guarda caso, manderò una scena balcanica. Io l'ho sentita a casa. È una delle migliori compilation che abbia fatto. Me la andrò a spulciare perché sì, sono super curiosa. Sì, vai su. C'è lui, c'è la pagina cose Facebook. Contemporanee comunque. Sì, contemporanee. Ah, fantastico, ancora più contemporanee di personaggi ignoti. Lui si fa da una mano chiaramente da qualcuno del posto. Mm-hmm. Ha fatto roba del Sud America, chiaramente Scandinavia, Belgio, già è più facile. Italia, c'è una bellissima scena. Ma certo, l'Iran, io sono rimasto. E ci sono delle cose incredibili, ma anche quella balcanica, dato che l'hai citata, è assolutamente da menzionare e da approfondire, insomma. No, fantastico. E quindi mi confermi... andrò a cercare, no, quindi me lo scrivo. Sì, sì, bella, dopo ti do i riferimenti, insomma. E quindi questa cosa di dovete sapere voi ascoltatori, e quando Lili suona e ascoltatrici naturalmente, non si sa mai. Naturalmente lei ti mascheri ancora, non so se hai cambiato. No, non è che mi maschero, mi ti metti qualcosa? Mi trucco gli occhi, mi metto un po' questi simboli della guerriglia in faccia, però non è che mi maschero, tipo, cioè, non ho nessuna maschera. Segna. Mi segno, sì, mi calco. Ti calco? mi segno, mi metto questo abito che è proprio l'abito della Refrain, ormai da 10 anni, infatti lo dovrei cambiare perché sta, poverino, insomma, ha fatto un po' la sua storia. E com'è questa cosa? Io penso fosse una sorta di sciamanesimo. Sì, un po' lo è, nel senso che comunque è... Sei una sciamana, quindi? No, lui è uno scemone, lo ma siamo tutti un po' scemoni. Siamo tutti un po' scemoni e sciamani. Molto, sì, più scemo so io forse. No, no, sta perla di saggezza. 22 e 24, si quindi siamo ormai siamo quasi a 25 allora, o'clock. Si può dire tutto. Si può dire tutto. Anche le stupidaggini. No, però è un modo sicuramente per staccare. Anche no, l'abbigliamento di tutti i giorni da quello che poi è un evento straordinario. Quindi mi piace l'idea. Evento mentale più che altro. È un più che una maschera, è un'altra cosa. Cioè quelli sono sì, come un abito rituale, dei segni rituali. E in quel momento c'è Lili Refrain che è un canale ed è una sorta di ponte che traduce delle cose in suono, in musica, ed è diversa da me, cioè lei fa delle altre cose, quindi non ci possiamo vestire uguali e non è bene che i miei abiti se ne vanno, cioè anche la pelle sarebbe da cambiare, ma posso fare solo con gli abiti per adesso. Vabbè, una sorta di ritualismo. Sì, io cerco queste serie ogni tanto. Sì, sì, no, ma è vero, cioè, c'è questa ricerca qui di uscire proprio da. Non so, secondo me è importante anche togliersi gli abiti e vestire un'altra cosa in quel momento, perché in quel momento accade altro proprio completamente. Quindi tutto ciò che fa parte della vita quotidiana deve rimanere un attimo staccato e fuori. È bene che sia così. È una catarsi, questo raggiungimento dell'estasi. Peraltro ti saluto da Raffaele Pezzella, ci stai ascoltando. Ciao Raffaele, poi mi andrò a spulciare le tue cose, sono super curiosa. Ha mandato, te lo giro io, un codicino che ti potrebbe permettere di andare su quella cosa che ti dicevo. Okay. Senti, io direi a questo punto, per riprenderci un attimo e sentirci qualcosina, hai delle preferenze? Senti che formalità. Oppure scelgo io. Scegli tu, vai. Kawax. Vogliamo mandare Baptism of Fire? Ah, Baptism of Fire, sì, facciamo la batteria. Dai, così, va bene. Vediamo quale potrebbe essere la Lili Refrain. Magari. Ma non sarà. Perché Kawax è un disco bello. Io personalmente preferisco la parte più psichedelico visionario gotica di questo disco. Quindi forse gotica. Qual è l'altra parte? Quella che fa un occhiolino al metal. E c'è sempre un occhiolino al metal. Quella però. Sì, mi piace. Che piace al fantasma. Però. Che piace più al fantasma, ovviamente. Io sono più. Sono più industriale The Dark, no? Quindi però il disco nella sua completezza è un disco molto interessante. Poi in questa occasione l'ho risentito più attentamente, l'ho rivalutato, insomma, in senso buono, io e altre persone che conosco, insomma, in prospettiva del concerto, insomma. Okay. Ok, allora ci sentiamo questa Baptism of Fire. Andiamo in diretta mentre abbiamo in sottofondo, Raffaele sarà contento, questa sua compilation Northern Lights, le luci del nord, che chiaramente siamo in Scandinavia. Allora, questo era invece Baptism on Fire, questo brano estratto da Kawax di Lily Refrain. Hai gannato la fine, eh? E lei l'ha detto, ha detto guarda che è finito, sì, lo, lo conosceva bene, sì. Strano. Ma sai, era lei la timida comunque. Allora, avevo un lieve rossore. Mi hanno dato una un'icnusa qui. Che naturalmente è una birra a 60 gradi. Una birra romana tipica. Bene, dunque, eravamo rimasti a, al tuo excursus musicale, allo sciamanesimo, al come dire, al, all'attività onirica che credo abbia molto influenzato quindi la tua musica, no? Kawax sì, sicuramente è stato proprio un sogno che ha dato origine a, a questo disco principalmente, cioè un sogno che ha scardinato tutta una serie di cose che poi mi ha permesso di restituirmi alla musica che avevo un attimo messo da parte per un periodo un po' così della vita. Sì, è legato a un periodo difficile della tua vita quel disco, no? Sì, quindi... sì. Sì, insomma, vabbè, avevo perso mio padre da poco, certo. Quindi è stato un po' un periodaccio, però... Avvicinano un po', per favore. Mi avvicino, eccomi. Avvicinati. Qua. Sì, e niente, ho fatto questo sogno dove mi ero perduta in questo labirinto, non riuscivo più ad uscire, non sapevo dove andare. A un certo punto arriva questo titano mostruoso con queste corna giganti che mi viene incontro, proprio un essere gigantesco. E pensavo, ok, il Minotauro, insomma, so, finita, game over, niente, ormai è finito il gioco. Però non avevo paura, cioè sapevo, ero molto proprio, non so, rassegnata che ormai, cioè, insomma, era finito proprio tutto quanto. E invece questo mostrone gigante arrivava proprio con questi passi che poi sono in Kawax, perché ho cercato proprio di ricostruire questo sogno anche sonoramente un po'. E anche il suono, legato a Kawax è anche un suono, che è un nonsense, sì, in realtà, non no? Significa assolutamente niente. È il suono che però evoca delle emozioni. Mi fa piacere che dici così. Ho studiato. E niente, comunque la fine di questo sogno è questo mostro gigante che arrivava a scuotermi e mi sollevava regalandomi questa visuale dall'alto. E questo è il sogno veramente? Questo è proprio un sogno che ho fatto ad aprile, poco prima di cominciare a registrare Kawax. E niente, vedevo dove era l'uscita. E pensa poi se invece sognavi spiegata. Lui. Kawax, non usciva Kawax, no. Non usciva un Kawax, no, no. Non usciva un Kawax di buone, niente qua. No, questa me la rivendo. Non male, non male. E quindi è stato fondamentale. Quindi sì, questo sogno, diciamo che è stato abbastanza risolutivo poi per quest'album, sicuramente, perché poi c'è anche tutto un lato immaginifico legato alle illustrazioni all'interno del disco, dalla copertina alle 10 illustrazioni, ciascuna delle quali rappresenta uno dei brani, e sono fatte tutte da Fernanda Verón, che è questa artista argentina straordinaria che ha curato tutta la dimensione grafica del disco. E di cui appunto si è parlato tanto, del sogno, ma anche poi di tutto quello che volevo raccontare, no? Questa sorta di ascesa dal buio verso la luce, perché poi è un album, nonostante sia cupo su certe cose, in realtà c'è tanta luce all'interno, almeno. E c'era un bisogno di luce. Proprio questa sorta di esorcismo un po', no? Di elaborazione di tante situazioni. E invece in questi 5 anni, quindi... Ho suonato. No, beh, non c'è altro tipo di elaborazione, perché questo, beh, c'è un percorso profondo, no? Che ti ha portato a Kawax. Perché messi tu, magari sei così, no? Sei molto introspettiva, mi sembra di intuire. E questo è un nuovo disco che farai, il percorso, c'è un percorso, c'è un riferimento, onirico o non, o qualcos'altro? Qui più che un'altra onirico, ispirazione. Sì, c'è più voglia di... C'è tanta voglia di sperimentare sia sul suono che su proprio le pulsazioni, che invece mi mancano tanto. Quindi ho sempre, non so, sento proprio l'esigenza di avvicinarmi di più a un lato tribale, probabilmente, e quindi a un lato più pulsante, più cardiaco, più percussivo anche. Sicuramente appunto le percussioni in generale forse sono lo strumento e il suono che più si avvicina proprio alla terra. Piacerebbe fare una cosa un po' più radicata, profonda e viscerale. E in questo è valso anche il percorso a cui accennavi, cioè di suonare comunque in giro per l'Italia e per l'Europa, o no? Dici su questo disco? Sì, cioè io penso ci sia sempre, no, un incrocio fra quella che è l'attività live e poi quello che uno va a mettere sul disco, perché comunque è un'esperienza di vita. Sì. Però al di là di questo... anche per introdurre appunto il discorso live e i giretti che ti sei fatta in giro per l'Europa e per l'Italia e per le varie regioni, ecco, dici un po', raccontaci un po' appunto come è andata questa esperienza e come semmai appunto arrivi poi a voler di nuovo rientrare in studio a registrare questi suoni di cui parlavi prima. Quella è un po' un'esigenza naturale, nel senso che a parte suonare dal vivo, che è proprio quello che mi piace fare nella vita più di registrare dischi in studio, tant'è che adesso i brani nuovi per esempio li sto presentando prima live e poi in studio, quindi diciamo che c'è più un rodaggio fatto dal vivo che non in uno studio di registrazione. E niente, no, suonare in giro è quello che proprio faccio quotidianamente, quindi quasi ogni fine settimana cerco di stare fuori in Europa. Per adesso mi è capitato quest'anno di andare principalmente in Germania, nei Balcani, in Polonia, ed è stato molto bello, soprattutto nei Balcani, che appunto il tour è durato un bel po', con un duo, si chiamano Trma. Trma. Però sono un duo, sono due, sembra Puglie, sono due. Infatti è pugliese. Vabbè, i Balcani, infatti, e la Puglia. Viene da Tremone. Questo è un terreno un po' accidentato. Ma chissà. Meno male che ci sia, spero non ci siano pugliesi. Ma no, speriamo di sì invece, perché vale la pena. Tra l'altro sono proprio, secondo me, l'orgoglio della Puglia e della Sicilia, perché il percussionista è pugliese. Sì. Mentre il ragazzo che prima suonava la chitarra e adesso suona questi synth modulari che si autocostruisce alcuni, è siciliano di Messina, e sono due persone straordinarie, bellissime, con le quali ho avuto il privilegio di fare questo tour nei Balcani, che è durato più o meno una ventina di giorni. Quindi abbiamo esplorato territori che io personalmente non avevo mai visto, né da turista né da musicista, ed è stata un'esperienza bellissima, perché insomma entri in contatto con delle realtà che se non ti avvicini così tanto non riesci a conoscere veramente. Ma dove esattamente il Balcano? Abbiamo fatto un giro tra la Macedonia, la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, la Serbia e in Bosnia, e poi siamo bello. Passati per il Montenegro tornando in Albania, da dove poi abbiamo ripreso. Ma nelle capitali oppure in posti piccoli? Anche in tutto, abbiamo fatto un po' giro vario ed eventuale. Abbiamo suonato in una radio, in un cinema, in posti diciamo meno istituzionali, più underground, situazioni più anche autogestite. Ecco, lì ci stavamo arrivando. Sì. Ci sono purtroppo anche posti occupati lì non ci sono, ma per una questione proprio insomma legale. Politica. Sì, esatto. Quindi non è un po' diverso da qua la situazione, quindi non è assolutamente, cioè si va a finire in galera nel giro di 30 secondi se occupi un posto. Quindi no, però tante situazioni autogestite, sì. E niente, c'era questo festival del fumetto a ridosso del nostro tour in Romania, che è un festival gigantesco che adesso per la miseria non mi viene in mente come si chiama, ma è famosissimo, una sorta di corrispettivo del nostro crack festival. Sì, certo. Sì, però proprio grande, bellissimo, internazionale, ci vanno a finire veramente artisti di tutto il mondo. E la risposta sarà buona nel pubblico, insomma. Sì, sì, sì, molto, perché comunque sia in alcuni territori proprio ci vanno pochissime band, sia perché comunque magari non è difficile arrivarci, perché c'è un problema enorme legato alle frontiere, quindi a noi ogni volta ci hanno scassato le scatole, cioè siamo carini, e insomma nonostante poi avessimo i documenti, tutto il resto, ogni cacchio di confine c'era questa menata della frontiera. Ma lo so, io per esempio, pensa a quelli che magari invece hanno più difficoltà, non c'hanno i documenti. Sì, è un casino, cioè nel senso è veramente un casino. Abbiamo anche dato un passaggio a un certo punto a questo ragazzo cinese che doveva assolutamente andare in Romania e niente, era fermo alla frontiera, non lo facevano passare, non c'era modo proprio di... No, ti capisco, io ci sono andato, c'è ancora Ceausescu, penso, nel 86. Lì in Romania ebbe dei problemi per girare, problemi di tutto, mi sono divertito, però è stata dura. Sì, no, ma anche in posti che tuttora fanno parte di questa fantomatica, fintissima comunità europea, veramente è tutta una farsa. No, lì invece impattai nel socialismo reale con ogni tre metri Ceausescu uguale comunismo, no? Che c'è stata una sorta e chiaramente sappiamo benissimo che l'esperienza del socialismo reale erano antitetiche rispetto ai sacri testi marxisti, quindi alla fine insomma. Va bene, andiamo oltre. Io direi sentirci un altro pezzettino, un po' più divagato, ma è interessante questa cosa dei viaggi, questi tour. Viaggi di lì, no, sarà un prossimo. Perché, sai, molta gente ha altre tappe, altre visioni. Di solito sì, alla fine si basa, la Germania per carità è terreno, Germania, la Francia, ma in Europa, però, diciamo, in Europa magari è più facile, sono stata anche in Scandinavia, in Svezia, in Danimarca durante un festival, però è un'altra, cioè diciamo in Europa forse è più diversa, semplice, sì, c'è una dimensione anche più familiare, per quanto poi l'Italia probabilmente sia sempre un caso a parte, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista dei fondi per la ricerca, qualsiasi cosa, quindi diciamo che viaggiare e avere la fortuna di farlo comunque sia con la musica e quindi con qualcosa che sia uno scambio che prevede un incontro umano è tutt'altra cosa di viaggiare come turista, perché immediatamente comunque la possibilità di entrare, proprio di accedere immediatamente alla cultura locale e di avere subito uno scambio immediato con la gente del posto che magari ti ha organizzato la data, quindi subito riesci a interagire, e questa cosa rispetto alla domanda che mi facevi tu è uno stimolo, perché ovviamente vai ad indagare sia pensieri su come funziona magari un paese rispetto al tuo, come che tipo di cultura c'è, no, in altri posti rispetto alla tua, cioè è uno scambio, è un confronto ed è bellissimo, perché si imparano sempre un sacco di cose, si aprono tante strade, e così come pensieri ovviamente poi vivendo queste cose in primis anche interiormente le rifletti anche sulla musica, quindi diventa tutto motivo di contaminazione. E quindi non so, dai canti bulgari a magari delle band che incontri in giro, ma anche i suoni e gli odori magari di un luogo entrano poi a far parte della tua esperienza, no? Quindi anche quando meno te l'aspetti, comunque vai lì e dici oddio, ma questa cosa che cos'è? Ah, ma forse viene da lì, chissà. E è qualcosa sacra, gli odori sono una cosa importante nella vita. Come no, insomma, la voglia. Accidenti. Sì. Va bene, io una piccola pausa direi. Sì. Posso scegliere io oppure? Vai. Adesso ci andiamo ad ascoltare, quindi Tragos, che attenzione, è la quarta traccia di Kauax. sort of glad about something, but on the other hand, you're not. Allora, questa traccia Aurora ascoltata era Tragos. Tra i miei preferiti di questo Kawax. Che vuol dire Tragos? Oh, scusa. Ah. Vuol dire canto di capro. Di capro? Di capro, sì. È da dove ha origine la. No, la tragedia, no? La tragedia dal greco. Tragos significa proprio capro. E la tragedia è questo canto di capro, perché la capra quando bela e stride e mette questa cosa che sembra molto drammatica. Fallo, dovevo anche farlo. Ma sentite, ci sono delle compilation di canti di capra pazzeschi, sono queste capre che urlano come degli ossessi. Prove tecniche andrebbe bene. A cercare, insomma, bellissimo. Quindi a cercare la compilation dei capre. Della mia vita. Canti di capre. Canti di capre, bellissimo. Sì. Insomma, questo trago sì, mi piace, perché io ci ho ritrovato dei riferimenti che qualcuno già ti ha detto, ma ci sono, c'è Lisa Gerard, mamma o Gerard, che si alzi voglia sta pronuncia, che è Gerard, si dice, penso, non lo so, Lisa, diciamo Gerard, Gerard, Lisa, facciamo l'inglese, Lisa. Quindi Lisa ti ha influenzato in qualche modo. Ma sai che in realtà questa cosa è molto buffa, perché molte persone, anche durante, cioè in alcune recensioni che hanno fatto su Kawax in particolare, continuavano a fare questi riferimenti a Lisa Gerrard o Gerrard, che si vuole, e io in realtà non la conoscevo, cioè non la conoscevo proprio. Quindi quando me la sono ascoltata ci sono rimasta, perché ho detto ma stiamo scherzando. Ho pianto, perché la prima cosa che mi è capitata è stata Sacrifice, questo brano strepitoso di lei da sola che canta con questo tastierista che fa dei bordoni, e c'è lei che fa sta roba, ma da Peter Burke. Sì, esatto, cioè fa una roba veramente, non si può non piangere su quel brano, mi fa proprio... Io piangevo per strada quando lo sentivo. Piango continuamente quando lo ascolto, e non solo quello, perché poi l'ho trovata anche, che in realtà sono più nei Death Can Dance, che hanno fatto la colonna sonora di questo film fantastico che si chiama Baraka. Tutto questo film sulla storia dell'uomo, fondamentalmente non ci sono dialoghi, ma ci sono tutte queste... Il film che piace a lui, che faccio? Vedi? Sì. No, io adesso a bruciapelo devo chiedere come si chiama il festival del fumetto romeno. Porca miseria, non mi sta bene, ma vedrai che mi verrà in mente quando non serve più. E comincia con la B comunque, però non mi sta venendo in mente. Porca paletta, vabbè, mi verrà in mente quando davvero, quelle cose che... Comunque guarda, in Sacrifice, come tutta la musica di Can Dance e di Lisa Gerrard, e quindi anche, se vogliamo, anche in Tragos, perché che piacciono, il dolore secondo me è il sentimento che più crea. Sì, diciamo che se ci sei felice è un po' difficile. È molto più profondo rispetto a qualcosa di più ridanciano, insomma, quindi i parti migliori vengono da una sofferenza. Adesso non voglio fare il darkettone per forza. No, però è vero, io penso che, ma non soltanto della musica, credo anche nella letteratura, nella poesia, insomma, nelle varie forme di comunicazione in generale. Siccome è un sentimento che comunque ti va a scuotere qualcosa di molto viscerale e profondo, che non sempre riesci a capire a livello di raziocinio, certo. Quindi è qualcosa che magari ti possiede anche, no? Mm-hmm. È proprio una possessione, quella del dolore, non ci puoi fare niente, perché non hai un pulsantino che dice basta, adesso sei felice, certo, te la devi un po' vivere questa cosa qui, e è l'unico modo che hai per cercare magari di esperire questa cosa e trasformarla in qualcos'altro. Solo che quando sei felice, ma che te frega di trasformare, cioè perché dovresti fare questa operazione alchemica? Te la tieni quella felicità, cerchi di tenertela più che puoi. Quasi il trasformare il veleno in medicina esatto, bravissimo, proprio classico. Ed è la summa di 666 Barons, questa cosa, cioè questa illustrazione fatta da Fernanda, bellissima, dove c'è questo serpente che perde la pelle, che è una traccia di Kawax, disco, esatto. Sì. C'è questo serpente che perde la pelle e niente, c'è tutta questo binomio dell'associazione del serpente al 666, diciamo, certo, satanico, che poi in realtà non ci crediamo, e in realtà il serpente è il simbolo della femminilità, fondamentalmente, perché insomma assomiglia un po' alla forma dell'utero. Poi c'è questa cosa di trasformazione fortissima, che comunque appunto c'è, questa perdita di pelle, questa muta costante. E proprio in questa illustrazione, se si sale verso l'alto, c'è questo groviglio di pelle di serpente che piano piano diventa il bastone di Mercurio, che invece è il simbolo della farmacia, quelle che tutti lo vedono, no? Che è il simbolo della guarigione, della cura. È vero. Ed è proprio questo dualismo tra l'antidoto e il veleno, che sono la stessa cosa, solo che uno ti uccide e l'altro ti guarisce. Quindi è... Non c'è luce senza buio. Possiamo continuare così. Probabilmente potremmo anche continuare sul fatto che sono parte della stessa medaglia, sono opposti, sono complementari, proprio come dici tu. Quindi... E poi invece il rapporto con gli insetti. Bel mondo quello degli insetti. Io ci sto parecchio in fissa, mi piacciono tanto, tanto che appunto il Polifilla Fullo in particolare è diventato il logo della Refrain. Esatto. Questo che me l'hanno chiesto, io lì prima non sapevo rispondere. C'è già risposto 4 anni fa, ma io non me lo ricordo. La risposta è il Polifilla Fullo. No, il Polifilla Fulla. Polifilla Fullo, detto anche Maggiolino dei Pini. Senti che qui appunto oltre alla cultura classica abbiamo un po' di cultura scientifica. Esatto. Possiamo mettere le basi tipo di Piero Angela. Ho detto Polifilla Follo. Polifilla Folle. oddio. È un coleottero noto anche come Maggiolino dei Pini e nulla, tutta la storia del Polifilla Fullo come è il coccotroccolo che... come cos'è coccotroccolo? Un altro tipo di insetto, coccotroll. No, è una cosa seria questa. No, ma io non non è seria, in realtà non è seria. No, ma interessa invece. È una cosa molto... sì, vai. Volete che vi racconti la storia del Polifilla? Certo. Ok. No, perché c'è qualcosa che aspetta gli insetti, insomma. Lui è un coleottero ed è bianco e nero. E praticamente la maggior parte dei coleotteri in realtà vive sottoterra, sono stercorari, quindi mangiano lo sterco degli altri animali, ci depositano le uova e tutto il resto. E il Polifilla Fullo invece è bianco e nero e vive principalmente sugli alberi. Ti fa ridere Polifilla Fullo? Polifilla Fullo fa ridere. lo so, è un nome buffo, un nome bizzarro. Però io l'abbiamo messo noi, lui non lo sa. No, non credo che lui si chiamano Polifilla Fullo. Lui si chiama Gigi. Cioè solo chiami Polifilla Fullo. Non si gira, non ne frega niente. lo so, abbiamo fatto questa cosa. Poi chissà perché si chiama così, non lo so. E nulla, praticamente vive sugli alberi, però essendo bianco e nero, ma è molto chiaro, diciamo, anche con venature di marroncino, non si mimetizza proprio benissimo in mezzo al verde, quindi viene predato sovente dalla maggior parte degli insettivori che vive sugli alberi. E quando ho letto questa cosa ho detto e si nutre prevalentemente di marciscenze dei tronchi, di foglie, mi avvicino, marciscenze di tronchi e foglie, e niente, viene predato, quindi insomma è un insetto anche abbastanza raro. Quando ho letto le abitudini di questo coleottero mi sono meravigliata, perché ho detto ma che strano, no? E poi ci ho pensato e ho detto ma porca miseria, ora diventa proprio il mio logo, perché è troppo interessante questa storia anche a livello politico, no? Quindi ho pensato, allegoria, in certo senso, cioè la morale di questa cosa secondo me è che questo insettino preferisce coraggiosamente mettere a repentaglio la sua vita pur di non mangiare merda. Esatto, quindi le sfide della vita, insomma. Sì. E quindi non è detto che se le vada a cercare, però ci prova, no? Cioè ci prova a stare distante da quella cosa lì. Poi può andare bene, può andare male, però intanto non si mangia la merda. E quindi è una cosa carina. E quindi, se me lo concedi, Elettrodo. No, vai. Lo concedo, certo. Me lo concedi. Anche se una cosa, la merda non è così brutta come la si dipinge, diceva anche Elio Estoletese, insomma. Per carità. Dal diamante non nascono niente, dalla merda dall'etame. La versione di Polifilla Fullo live a Radio Onda Rossa nel 24 novembre 2014. Mi ricordo solo 2014. Vabbè, 2014, fine 2014. Che vabbè, adesso continuiamo. Poi se ti ricordi. Se abbiamo tempo. Una cosa. Risumiamo i live. Allora abbiamo messo a parte queste tracce, insomma. E senti poi, parlaci un po' di questa della Subsound, Sangue Dischi, queste esperienze, e soprattutto c'è uno studio dove tu hai inciso, esiste ancora? Come si chiamava? L'Ombre Lobo, esiste ancora dopo tante traversie. Ce lo chiedevamo, perché l'Ombre Lobo in realtà era Brancaleone? Sì. Scusa, si chiama Comic 7B? No. No. No, è Stefania, mi chiedeva. No, no, si chiama, porca paletta, non mi sta. Adesso mi verrà in mente, davvero, ci penserò. Vabbè. Ha un nome solo. Non mi viene in mente. Vabbè. Torniamo a. Sì, no, l'ombre lobo esiste ancora. Adesso dovrebbe essere, mi pare, sulla. Si è trasferito, non so. Sì, dopo innumerevoli traversie sono riusciti a trovare una sede, mi sembra su via di Pietralata. Mm-hmm. E nulla, no, la Subsound invece è l'etichetta con la quale è uscito Kawax, sì. Sia in vinile, che c'era qualcuno che voleva sapere se era anche in vinile, c'è Kawax in vinile, un vinile sì, bellissimo. Un Fungis di Apostasia. Sì, 180 grammi di vinile bianco, tra l'altro, questa seconda ristampa è stata stampata con... Ops. Ma bel rumore ha fatto il tuo. Sì, è bello, questo era da lupare, per esempio. Fungis, se vuoi il vinile chiamaci che glielo dobbiamo, non so se c'è ancora. Sì, oppure se sei a Roma vieni. Sì, sì, come no, lo puoi trovare, lo puoi trovare. Basta che domani sera qua. Ah, perfetto. E allora il 16 te lo do io, Fungis, il vinile. Fungis, se ci sei batti un colpo. Vieni, Fungis. E sì, no, esperienza bellissima, soprattutto con la Subsound, che sicuramente si ripeterà, perché insomma, ecco. Davide, mi sono trovata veramente bene anche con Luca, Sangue il prossimo dischi. Disco? Sì, sì, sì. Perfetto. Non ho almeno questo ce lo puoi dire. Sì, uscirà sicuramente sì. Per Subsound, vediamo se sarà solo per Subsound o anche Roma, per altre allora, etichette. Davide sì, sta a Ciampino, praticamente sì, sta a Roma. E sì, no, bellissima esperienza, perché poi Davide ha questa attitudine quasi di adozione nei confronti delle sue band, quindi ti senti proprio, cioè dal punto di vista della promozione, della distribuzione, di tutto quanto, lavora veramente bene, ma tanto, tanto, tanto, infatti straconsiglio. Qui intanto mi dico, banda desenata? Banda desenata, ci mandano i suggerimenti. No, siete gentilissimi. Grazie Raffaele, ma non è neanche così. No,